Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto. As it should always be. The foundlings are the future. This is the way. This is the way. This is the way. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. È sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla Terra! Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà. E buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati a una nuova puntata alle porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat, 13.59 onde mediocri, cioè onde medie. Ben ritrovati, 14 aprile. Siamo un po' in ritardo come sempre, come il nostro piuttosto standard, e però speriamo di trovarvi comode e comodi, perché oggi vi parliamo di un argomento che ci ha intrigato moltissimo e quindi insomma parliamo di tecno-orientalismo nel cyberpunk, nella fantascienza. Ma prima di farlo dobbiamo fare un come si dice, un'errata corrige, un disclaimer, un... Mi veniva in mente la parola disclaimer, ma secondo me è meglio errata corrige. Sì, oppure anche un cenere sul nostro capo, non lo so. E, nella scorsa puntata, che non è stata due settimane fa, perché due settimane fa abbiamo zompato amenamente, ma l'ultima puntata di Le Porte di Tannhäuser abbiamo parlato di sogni. E all'interno di quella puntata vi abbiamo narrato di Neil Gaiman, di Sandman e in generale insomma un pochino anche dell'opera di Neil Gaiman. E non ci rimangiamo quello che abbiamo detto, nel senso che comunque sia è uno scrittore che abbiamo amato leggere, probabilmente ameremo ancora in qualche maniera leggere, ma non sapevamo che, e le nostre ascoltatrici e ascoltatori ce l'hanno fatto notare e siamo contentissimi di ciò, che Neil Gaiman è stato negli ultimi anni è stato coinvolto in una serie di denunce, neanche una serie di denunce di violenza nei confronti di alcune donne, tra l'altro violenze che riguardavano fondamentalmente rapporti BSDM non consensuali, delle dinamiche piuttosto pesanti, piuttosto violente e abbastanza ghiaccianti, insomma, anche da leggere. E il processo, se ho capito bene, è ancora in corso, comunque non si è concluso del tutto. In ogni caso la cosa ci ha devastato abbastanza, nel senso che era comunque un nostro eroe in qualche maniera, lo sentivamo comunque come una persona che oltretutto ha portato avanti, ha sbandierato contenuti femministi ai 420 per tanti anni. Le sue eroine erano sempre in qualche maniera delle donne che si volevano emancipare e attraverso mille avventure si emancipavano, quindi devo dire che è un qualcosa che ci ha abbastanza colpito. Questo, come dire, ci ricorda che il patriarcato evidentemente è ovunque e che è molto più radicato di quello che possiamo pensare, e che anzi è qualcosa che non dobbiamo sperare che basta dire tre formulette magiche e lo cancelliamo dalla faccia dell'umanità. E anzi, purtroppo, spesso abbiamo riprove che è un cammino molto in salita. E detto ciò, insomma, in ogni caso, come giustamente ci facevano notare anche le nostre ascoltatrici e ascoltatori, non è che quindi non si deve più parlare di Neil Gaiman, però ci tenevamo comunque a dirlo. e anche a dire che oggettivamente non lo sapevamo. Ci siamo rimaste male. Certo, no, il punto è proprio quello, che non è tutto oro ciò che luccica, ci sta a pennello questa cosa. Devo dire che ci ha fatto anche molto piacere che ci arrivasse questa segnalazione. Vero. Perché al di là di tutto vuol dire che ci ascoltate con interesse e con partecipazione in qualche maniera, quindi siamo molto contenti, continuate a farlo e anche a sollecitarci quando sbagliamo o quando volete aggiungere cose. Assolutamente meraviglioso. Tra l'altro potete scriverci a posta wombat@insiberia.net o scriverci a diretta wombat.vado.li, per esempio ora che siamo in diretta. In tutto ciò io mi pongo sempre questo problema qua, appunto, degli attori e delle autrici, tendenzialmente però il problema sono gli autori. Spesso sì. Esatto. E che cosa, insomma, chi sono e cosa dicono, e soprattutto con i pezzi musicali mi succede. Madonna, perché guarda, io faccio uso di tanti pezzi musicali che non in inglese, ma magari appunto in lingue asiatiche, o che assolutamente non posso capire che cosa stanno dicendo. Questo è vero, grande dilemma. Grazie a Dio sono riuscito a mettere la traduzione automatica più o meno su tutto. Per esempio oggi, mentre cercavo dei pezzi cinesi, ho incontrato questo pezzo rap cinese bomba, ho detto vai, fantastico, detto, ho trovato a vedere il pezzo. Però c'avevo la traduzione automatica inserita, per cui ho cominciato a leggere il testo. Era un testo di un patriarcale incredibile. Hai detto vabbè, lascio perdere. Con, tra l'altro, era doppia voce, cioè c'era maschile e femminile. E anche lei sosteneva comunque. E, cioè, io non so quanto fosse, magari era tutto buttato sull'estremo per essere ironico. E non riusciamo a coglierlo. E noi non lo cogliamo. Però era tutto che, insomma, che le donne sfruttano gli uomini come bancomat, come... Bling bling. Sì, il potere delle donne. Cioè, perché il pezzo era sul potere delle donne, però in chiave non capitalista. Sì. È benissimo. Dai cinesi, quindi boh, magari era un cinese che abita in America, non lo so. Però vabbè, sono rimasto sconvolto. Lo so, lo fa. Però sì, devo dire, nella musica sfondiamo porte aperte, perché insomma già io continuo a portare la fascia a lutto per Morrissey, che si è completamente rincoglionito. E quindi boh, è così, purtroppo. È un continuo cascare dalla sedia, che si deve fare. Va bene, senti, ci rilassiamo per darci la carica o si parte a bomba? Ci sto, rilassiamoci un po' e poi partiamo con i tecno-orientalismi. Vai, tecno-orientalismi fra poco qui su Radio Wombat, alle porte di Tannhäuser. Sign. Rieccoci qua, 13.59 onde medie, queste sono le porte di Tannhäuser. Sì, e radiowombat.org è il nostro sito, per chi non se lo ricordasse, posta wombat@siberia.net e la posta è diretta a radiowombat.net. Sì, cosa ho detto? Ho detto org, oh. No, punto .net. diretta a wombat.vado.li, il pad per chiacchierare con noi in diretta. Dicevamo, tecno-orientalismi. Allora, intanto iniziamo a contestualizzare un po', perché la parola potrebbe dare luogo a fraintendimenti. Ecco, non parleremo tanto di letteratura o comunque di opere orientali in sé per sé, anche se poi lo vedremo, ci andremo comunque su quello. Sì, certo, non è il focus. No, diciamo che il focus è proprio sulla parola tecno-orientalismo e quello che si porta dietro. Partiamo da orientalismo. Orientalismo è un termine che viene coniato nel 1978, più o meno si risale a quell'anno lì, per indicare una stereotipata e pericolosa rappresentazione dell'Oriente. Già nel 78 si iniziava a intravedere dei caratteri abbastanza evidenti in un certo tipo di letteratura, di estetica di fondo colonialista. Di fatto Oriente, già la parola Oriente di per sé è come storicamente, come le società occidentali, tendenzialmente le società anglofone e parte dell'Europa definiscono quel gran buglione, quel grande mix fondamentalmente inesistente che nella loro testa è composto da Medio Oriente, Asia e Nord Africa. Quindi Oriente in fondo è una parola che ci siamo un po' inventati in Occidente, usando sempre questi due termini, per definire un qualcosa di in realtà molto diversificato, che noi tendiamo a mettere insieme in maniera molto, appunto, con una mentalità tipicamente simpaticona, colonialista. Storicamente l'Oriente è associato nella nostra testa occidentale a qualcosa di esotico, di impescrutabile in qualche modo, irrazionale, pericoloso, femminile. Molto spesso lo vedremo, associato in qualche modo a un carattere femminile. E invece l'Occidente ha un carattere tendenzialmente logico, razionale, maschile. Questo ovviamente stiamo parlando di stereotipi, però di fatto stereotipi ben radicati nei secoli e anche oggi in Occidente. Quindi quando parliamo invece di tecno-orientalismo ci riferiamo all'utilizzo di quella che genericamente viene definita la cultura asiatica all'interno delle ambientazioni futuristiche della fantascienza occidentale. Quindi, per capirsi, quando un turista occidentale va in Asia e osserva le città, le tipiche città asiatiche, metropoli asiatiche enormi, tendenzialmente tagga nelle foto tipo il futuro adesso, oppure la città cyberpunk avverata, tutte queste cose qua. Perché? Perché chiaramente ci si riferisce a un immaginario futuristico e futuribile ben preciso che abbiamo visto per decenni. Ma di fondo quello che stiamo osservando è essenzialmente il mondo industriale giapponese degli anni 80 e quello che ne è derivato. Quindi non stiamo osservando un pittoresco quadro di fantascienza, stiamo osservando una società industriale ipertecnologica con tutte le sue problematiche anche che si porta dietro. Diciamo che in qualche modo, no, quando arriva la grande industrializzazione in Asia, principalmente parliamo del Giappone, che è uno dei primi a industrializzarsi, negli anni 80 la Cina era ancora un paese in realtà profondamente agricolo, per esempio, è quella parte di Occidente del capitalismo che si incrocia con, non so come dire, l'operosità asiatica, quella data da tutti si va verso, soprattutto in Giappone, tutti si va verso un obiettivo. E quello, se già in Europa l'industria, lo sappiamo benissimo, l'industrializzazione aveva portato a una spaccatura della società, no, una marginalizzazione degli operai e, insomma, non sto a ridire tutto, però cose negative, lì sono acuite, nascoste ma acuite, e quindi viene bene l'immagine del futuro oscuro, fumoso e, esatto, e claustrofobico. Sì, noi fra l'altro vi raccontiamo queste cose perché abbiamo preso spunto da un articolo che abbiamo letto di, ci teniamo a segnalarvelo, Sabukaru, letto male ma insomma perdonerete, punto online, che è un articolo che parla proprio di queste tematiche, si chiama Techno-Orientalism Decoding Japan's Misrepresentation as a Cyberpunk Utopia. E quindi parla da un'ottica giapponese, perché l'articolo è scritto da persone giapponesi, come loro hanno vissuto questo immaginario e come se la sono, insomma, non l'hanno presa bene, ecco, diciamo. E dicevano esattamente questa cosa, quest'ultima cosa che dicevi te, nel senso che comunque sia, loro sono ben consapevoli di vivere in una in scenari molto anche evidentemente distopici per qualche modo, ma non c'è niente di affascinante in tutto questo, e cioè è qualcosa che loro si sono vissuti sulla loro pelle, nel bene e nel male, e insomma va trattato il fenomeno per quello che è e non nella sua romanticizzazione un po' occidentale. Quindi come dire, quando parliamo di questo magari vi saranno venuti in mente tutta una serie di immaginari che poi vi stuzzicheremo ulteriormente citandovi qualche esempio, ma quando volete fare riferimento alla realtà, effettivamente non tanto a un immaginario fantascientifico, pensate alla Sony e alla Nintendo. Cioè, quando si parla perlomeno del Giappone, si parla di due industrie che negli anni, a partire dagli anni forse anche 70, sicuramente 80 e 90, hanno avuto un boom enorme, hanno condizionato di fatto il mercato globale e internazionale. E noi da occidentali, userò questo termine per tutta la trasmissione, quindi smetterò di scusarmene, però, perché se no non finisco più. Però noi da occidentali di fatto, come dire, abbiamo sempre visto dal nostro punto di vista la Sony e la Nintendo con la loro, con quello che volevano dire per noi, ma non ci siamo mai messi nei panni di che cosa voleva dire per le popolazioni dove invece la Sony e la Nintendo insistevano quotidianamente. Quindi diciamo che questa cosa, abbiamo detto, il concetto della parola, il termine tecno-orientalismo ufficialmente viene usata nel 78, ma continua a parlarsene, e già nel 95, quindi insomma diverso tempo fa in realtà, è quando sarà abbastanza nel cuore del problema, si iniziava a problematizzare seriamente il concetto di tecno-orientalismo, e si iniziava a dire che questo immaginario poteva in qualche modo essere una reazione occidentale al quello che veniva chiamato il Japan Panic, ovvero la paura dell'ascesa economica giapponese e della sua influenza sul mercato globale e tecnologico degli anni 80. Quindi quello che si diceva prima, in un certo senso era anche una fobia occidentale di chiaro stampo colonialista e paternalista, ovvero oddio, ma non è che questi che abbiamo dominato e cercato di dominare finora adesso ci superano e fanno qualcosa di aggressivo e di minaccioso nei nostri confronti. E quindi questa era una delle prime cose che vengono messe in luce e che rimangono problematizzate, tra l'altro, soltanto da quell'altra parte del mondo, perché da noi adesso si inizia a parlare di tecno-orientalismo in termini problematici, finora è stata scarsamente problematizzata. E, come dicevi, in quegli anni in Giappone c'è stato un enorme espansionismo dell'industria tech e quindi come dire, era impossibile che anche noi in Occidente, la nostra scrittura, la nostra narrativa e anche il cinema, le arti varie non ne risultassero popolate, come dire. E quindi da un lato c'era quello che abbiamo detto finora, quindi anche una malevola, se vogliamo metterla così, paura, fobia la tigre che si ribella, la tigre in gabbia che si ribella. Dall'altro lato c'era anche però un'ansia e una paura della perdita di controllo sullo sviluppo tecnico e capitalista, quindi il cyberpunk e la fantascienza, che spesso abbiamo detto tante volte, era anche un modo per esorcizzare questa paura e per mettersela davanti agli occhi e dargli un volto. Quando parlava dell'Oriente, dipingeva questi scenari asiatici ipertecnologici, lo faceva anche per dire ok, questo è un problema, è un rischio se andiamo in quella direzione. In teoria questo, cioè diciamo che il tecno-orientalismo in estrema teoria potrebbe voler dire tante cose, cioè non necessariamente ha solo uno sguardo, ha solo un'interpretazione. Potrebbe per esempio rappresentare una sorta di contrasto con l'orientalismo, cioè i popoli orientali non sono più sottomessi e pittoreschi, ma anzi sono dominanti e inarrestabili, quindi anzi potrebbe anche essere vista come qualcosa di positivo. Cioè anzi dare una dignità e dare un ruolo, un volto aggressivo ai popoli asiatici. Ecco, in realtà però lo dicevano in quell'articolo, ma anche in tanti altri articoli, va notato che questa visione occidentale tendenzialmente è sempre all'interno di tinte distopiche, cioè non è che questa rivalsa in qualche maniera, questa ascesa asiatica viene mai visto come un qualcosa che comunque di che si sono scelti in qualche maniera. No, è sempre qualcosa di estremamente distopico, estremamente negativo e drammatico. E quindi l'ascesa asiatica si accompagna con questi scenari sempre esclusivamente tetri, dissoluti. E in questo c'è molto della nostra cultura, con nostra intendo occidentale, che si disgrega. Cioè, ecco, abbiamo perso i valori, abbiamo perso la nostra cultura, le nostre tradizioni e veniamo contaminati dall'Asia. Esatto, secondo me c'è una doppia lettura, nel senso come stiamo facendo, la doppia lettura c'è da chi vede l'Oriente e l'Oriente che vede se stesso. Il tecno-orientalismo, che un'etichetta che diamo noi, parte soprattutto dalle narrazioni direttamente asiatiche, che fanno tutto, come si diceva, oscuro e fumoso, perché problematizzano la questione della tecnologia e che impatto ha poi sulla società. Se lo vivono, insomma, sulla pelle. Esatto, se lo vivono sulla pelle, perché queste sono società che hanno un legame con il passato profondamente radicato, che è colonna portante. Cioè, per noi il passato non è colonna portante, per noi è vanto, orgoglio, ricordarsi e veniamo da lontano, ma non c'è un legame infinito come invece chi, per esempio, ha religioni in cui c'è la reincarnazione, che quello aiuta chiaramente, ma insomma in generale in Asia c'è un legame diverso con il passato. Quindi più ciclico. Esatto, più ciclico, e quindi bisogna mantenere qualcosa di fermo all'interno di un cerchio in modo tale che giri intorno a un asse e non a caso. Quindi da una parte problematizzare la tecnologia in contrapposizione, quindi sono loro stessi che la vedono negativamente, dall'altra gli occidentali, come dicevi tu, che la vedono negativamente perché in realtà in questa loro problematizzare ci vedono in realtà una potenza, una minaccia, minaccia appunto, certo. Minaccia che comunque non è sparita in tutt'oggi. E comunque negli anni 70 Dan Simmons ci raccontava di un'America che per esempio era dominata dalle zaibatsu, cioè dalle grandi industrie giapponesi che poi erano andate. E se vediamo per esempio insomma, no, è una fobia che torna per il Giappone e per l'America, visto che buona parte del dei debiti di Stato sono in mano alla Cina, che è anche lei che arriva dopo, ma anche la Cina invece diventa un tecnocapitalismo soprattutto oggigiorno, sì, e quindi sì. Un nuovo nemico dal punto di vista dell'Occidente. Sì, ma infatti penso che ci siano esatto, varie visioni, varie interpretazioni che possiamo dare e non ci vogliamo, certo. Non vogliamo sposarne una e basta. Anche perché insomma il cyberpunk, la letteratura fantascientifica, la fantascienza in generale è talmente vasta che semplificare dicendo tutti volevano dire quella cosa là sarebbe assurdo, esatto. È impossibile. Però c'è da dire che effettivamente questo carattere orientale in maniera un po' stereotipata ricorre tantissimo e, in alcuni prodotti tra virgolette mainstream, sì, più pop magari, un po' più così, sono molto evidenti i caratteri beceri, cioè i caratteri più colonialisti, che poi li vedremo quali sono insomma molto pesanti. E in altri, in altre opere invece anche radicali, politicizzate, con un altro carattere, magari si trovano lo stesso degli elementi asiatici, ma rovesciati di significato. Lo vedremo con un'ottica molto più contaminante, molto più anche che incuriosita da questa mescolanza. Quindi sì, diciamo che vi abbiamo parlato ora dei termini generali, vi abbiamo probabilmente dato un'infarinata, ma vi dobbiamo fare un paio di esempi che probabilmente sono quelli che vi fanno capire di cosa stiamo parlando, se già non l'avete inquadrato. Certo. Il primo grosso esempio è ovviamente Blade Runner, film dell'82, che non ha senso presentare anche perché ve ne abbiamo già parlato milioni di volte, ma effettivamente viene visto come uno dei primi esempi in cui appare il tecno-orientalismo, almeno in maniera così evidente. È l'82, quindi siamo all'inizio del cyberpunk, l'abbiamo detto, Blade Runner, anche suo malgrado, di fatto è una delle prime opere cyberpunk. Sicuramente una delle più conosciute. Sì. Parlavamo l'altra volta di quello, come si chiama? Non mi ricordo mai il nome di quel film di fantascienza dove ti inserisci dove c'è la pistola fatta di ossa. Sì, quello di Cronenberg. Brava, anche lì c'è quelle delle tinte un po'. Sì, tantissimo, asiatiche. È vero. Madonna, non mi viene neanche a me. Vabbè. Mai è anche quello lì. Existence, ormai. Grazie. Se no ci avrei pensato per tutta la trasmissione. Però qui stiamo parlando di altro. Sì, però è vero che davvero compare tantissimo, quindi probabilmente avrete cioè un altro degli esempi ovvi è tipo, non l'abbiamo scritto effettivamente nella nostra scaletta, ma ci stava tutto Ghost in the Shell. Ah sì, ci avevo anche pensato, poi mi sono scordato. Anch'io, ovvio, nel senso che quello proprio, ecco, e quello è abbastanza becero, nel senso lì, cioè ora, al di là del contenuto in generale, però i contenuti, i riferimenti tecno-orientalisti sono proprio stereotipati, sono proprio precisi, molto stereotipati. Sì, sì, che va bene, Ma cioè, sì, non è che è voluto anche. Però lì è un giapponese e parla di Giappone, insomma. E infatti. Blade Runner no. Però Ghost in the Shell cioè palesemente sì, strizza sì. L'occhio a un qualcosa di molto mainstream anche. Boia. Sì. E poi insomma ci ride anche, però vabbè, questo è un altro discorso. Blade Runner è un po' di elementi. Intanto è una Los Angeles estremamente asiaticizzata, cioè te potresti pensare che è Shanghai, che è sì Tokyo. Potrebbe essere, esatto, tra l'altro se noti sono tutte città che si sviluppano verso l'alto o verso il basso. Esatto. E ce le fanno vivere sempre verso l'alto e verso il basso, mai verso in orizzontale. È vero. Esatto, quindi questi a Los Angeles, molto con questi palazzoni enormi. Di cui non capisci dove finiscono. Esatto. Sì, sì, sì, sì. E la, una delle prime scene, se non ricordo male, forse addirittura la prima, comunque all'inizio, inizio c'è questo enorme cartellone pubblicitario che poi è veramente iconico di Blade Runner, con questa enorme geisha che, se ci pensate bene, io ho iniziato a, a guardarla con altri occhi dopo, dopo aver preparato questa puntata, è opprimente, cioè boia, è minacciosa. Sì, sì. Cioè è vero che è di base, quello che ti sconvolge è questa enorme pubblicità di fatto, no? Però non è una pubblicità a caso, non c'è un coniglietto dentro, c'è una geisha che ti guarda con una maniera un po' minacciosa. E questo, sì, sì, e questo è, insomma, molto dominante. E questo è, secondo me, per mettere in chiaro le cose fin dall'inizio. Ovvero siamo, ci troviamo in una città distopica, molto triste anche se vogliamo, molto scura, molto cupa, dove le persone di base vivono male. E dominate da, sicuramente dalle industrie della, dal capitale, questo non lo nega Blade Runner mai, anzi, però appunto chi ha vinto in qualche maniera, insomma, si inizia a dare degli indizi. In tutto il film c'è un vestiario e un cibo giapponese. Il cibo sempre, dovunque. Questo tra l'altro è una caratteristica che trovate veramente ovunque. Ovunque, in qualsiasi altra opera di cyberpunk e fantascienza. Proprio è una roba ovvia. Lo street food fatto Sì. Forse questa grande moda del ramen è un po' un rimbalzo anche in qualche modo. Ci sta. Sicuramente ne abbiamo avuto meno paura grazie a tutte le volte che l'abbiamo visto in questi film. E anche il vestiario comunque, cioè le persone sono, molte sono asiatiche, ma non solo, sono anche molti occidentali, molti bianchi. Però molti, almeno nei bassi fondi, indossano copricapo e vestiari asiatici, almeno per come se le immaginava Ridley Scott, diciamo. Chiaro. E poi c'è Deckard il grande eroe, è di fatto un eroe, anche se ovviamente non entriamo nelle dinamiche di Blade Runner, però è ovvio ormai, insomma, per chiunque l'abbia visto, è un antieroe in qualche maniera. Ed è un eroe marginalizzato, però, all'interno di questo tipo di società è il diverso, di fatto. E c'ha una tipica posa fobica da bianco privilegiato, che è incazzato tutto il tempo. Cioè, c'ha la rogna lui, secondo me, almeno da come lo leggo io, perché è palesemente marginalizzato. Lui si va a sedere al sushi bar e non c'è posto, perché tutti gli hanno preso il posto e lui è l'unico che rimane in piedi. È su loro la depressione, no? È depressissimo, non è un amico, non è vedi isolato. Via d'uscita, anche perché non vedi mai il sole, no? Certo, e non entra in relazione con le altre persone, non parla la lingua, cioè gli altri gli parlano in altre lingue, lui si ostina a parlare inglese, dice, non mi ricordo bene la frase, però dice una roba tipo, ma che parlate, che cazzo vi pare, io continuo a parlare la mia lingua, e c'è un po' questa posa da cowboy rancoroso, no? Che odia tendenzialmente tutto e tutti, e dice, il mondo mi cambia intorno e io sono affezionato al good old world. E, questa cosa qua è molto, peraltro, molto diversa dal libro. Perché è vero, perché lui è un uomo vecchio stile. Lui è proprio il vecchio stile. È proprio il Clint Eastwood. Sì. Cioè, che sta lì, rancoroso, che dice, però, madonna, ma è cambiato tutto. Che ora, per carità, nel senso, è chiaro che la questione è un universo che ti sta cambiando sotto e ti senti sovradeterminato, però il dare il carattere orientale a questo cambiamento non è proprio neutra come operazione. Molto diverso dal libro, perché, come dicevo, in realtà in Dick non la vede così, cioè nel senso, o perlomeno questo carattere è molto meno marcato. Non ricordo... gli androidi sognano le pecore elettriche, non ricordo questa spiccata ansia nel caratterizzare il mondo come asiatico. Non, cioè, ci sono sicuramente magari dei riferimenti, ma non è così fondamentale, non è il carattere principale. E lo stesso Deckard non è così, cioè è molto più depresso nel libro, secondo me, ma in maniera quasi più esistenziale, meno rancoroso. Non è che ce l'ha con tutti, è depresso di suo, cioè dice madonna in che mondo di merda è sì, vivo. Sì, un po' rassegnato quasi. Rassegnatone, però cioè, l'unica cosa bella che ha è la... cosa c'ha la pecora? No, il, non mi ricordo mai. No, il, l'unicorno. No, l'animale, quello domestico che c'ha. Ah, il... la pecora. Sì, è la pecora. La pecora. Boh, comunque c'ha tutta questa, questa cosa che è l'unica sua consolazione e lo rende anche un po' un personaggio un po' tenero, se vuoi, un po' che ti fa anche un po' tenerezza, cosa che Ridley Scott l'ha completamente tolta. E... altra cosa da notare assolutamente, in Blade Runner, nel film, i poveri sono tutti asiatici, assolutamente. Mentre i ricchi ai piani alti, che troviamo quando scaliamo questi grattacieli, questi palazzi, sono tutti bianchi, cioè versi, cioè proprio questo è vero. Preciso. E lo stesso l'arredamento, lo stile estetico, l'arredamento di l'arredamento, chiamiamolo così, di strada, insomma, è tutto asiatico, cioè di strada nel senso nei bassi fondi, nei bar, è tutto un arredamento stereotipato asiatico. Invece all'interno dei palazzi del potere è tutto molto più incontaminato, si entra in un'altra dimensione, tutto è incontaminato rispetto al caos asiatico. Quindi tu c'hai i bassi fondi dove c'è il casino, il caos asiatico, delle grandi metropoli asiatiche, e poi entri in questa specie di empireo molto confortante, fatto tutto di ricchi bianchi. Perché forse, visto che sono gli occidentali, è un po' il paradiso, se ci pensi, sì, no? Cioè, sì. Quindi è tutto bianco, è tutto indefinito. Sì, non, è inquietante, perché comunque porca è inquietante. Porca miseria, sei inquietante. È inquietante, perché comunque Blade Runner era un bel film. Ora, infatti, infatti ora mi viene Twin Peaks. Certo, riprende. Esatto, il mondo, l'altro mondo, dove è, sembra, ricorda un po', è vero, è più un palcoscenico, però... Quella, è vero. L'altrove, che poi riprende anche Dylan Dog, per esempio, Sclavi in uno del suo, lo riprende. Questo indefinito, però è lì, chiaramente Lynch te lo fa vedere in modo lui per quello che è. Lui è un po' più un cazzoso. Cioè l'ansia vera. Comunque... però questo sì. E poi il grande classico, l'ultimo grande classico, i ruoli degli asiatici sono tutti pochi e negativi. Cioè gli attori e le attrici asiatiche dentro Blade Runner sono pochissimi e tutti negativi. È vero. E la cultura asiatica in fondo è uno fa di sottofondo, cioè non è protagonista vera. Vero. Non se ne parla mai davvero di che cosa, cioè non è che questa mescolanza non è stata profonda, non ha magari, che ne so, appunto prima facevi riferimento alla cultura delle reincarnazioni, della circolazione, non è che quella roba lì ti ha minimamente scalfito, no? Cioè quello che ti è arrivato è soltanto il capitalismo. Sì. Anzi, è il capitalismo che si è appropriato della cultura, esatto, asiatica, e quindi si vede bene. Detto ciò, questo è un po' Blade Runner, però non è l'unico esempio. Come dicevamo, io avevo qua segnato anche Quinto Elemento, che poi è anni 90, però è uguale, palazzoni in alto e in basso. Addirittura c'è tutta una scena all'inizio dove il protagonista parla con questo street food, che però, essendo dei palazzi talmente alti e superano le nuvole nel cielo, che è una barca volante, è che vero, gli porta i thailandese alla finestra, lui la mangia e poi va via la barca. Fico. Sì, pure Nirvana, cioè secondo Nirvana, me, certo, ecco, la visuale più europea forse sarà perché... da europea tendo a autoassolvermi, però mi sembra un po' più all'acqua di rose, nel senso mi sembra meno aggressiva come rappresentazione, magari è ugualmente colonialista, leggermente di meno, nel senso che c'è anche una fascinazione un po' perché più. Siamo meno anglosassoni, forse sì, gli anglosassoni un po' meno brutale, non lo so, cioè proprio fa schifo uguale, però magari, boh, non lo so, magari sbaglio. No, sono d'accordo, però insomma c'è molto altro. C'è molto altro, forse facciamo ascoltare un altro pezzettino e poi andiamo oltre, anche per arrivare a una figura abbastanza usata e anche abusata, che è il cyborg asiatico, un po' il prototipo del cyberpunk in versione tecno-orientale. Eh sì, è proprio questo. Rimanete con noi, queste sono le porte di Tannhäuser, parliamo di tecno-orientalismi. ทั้งกรรมเทพเกลียดขี้หน้าเราแล้วใช่ไหมเกิดความรักครั้งใดบ่เคยได้ลุ้นอยากจะเจอเนื้อคู่แต่ดันไปเจอเนื้อ Attenzione, è un duetto. ก็ต้มซะจนเกือบเปื่อยอยู่เรื่อยไป เหมือนกรรมเทพมันลองใจให้เจ็บทุกครั้งที่มองใครพระเอกนักรักผู้กลายเป็นศพตอนจบเหมือนในละครไทยอยากจะมีใครไว้เกี่ยวดองก็ได้แต่เจ็บกระดองใจอยากจะบินตอมดอกไม้กับเขาแมงเม่าดันบินเขากองไฟเคยคิดว่ารักพุทธพองยองใหญ่แต่ใหญ่พบรักที่มีไว้หลอกน้ำตาเราต้องไปเช็คหัวเขาเพราะเขาให้เรากินน้ำใต้ศอกก็เกิดมาเป็นไม้เหลือจะหวังไม้ปองอะไรไม้ดอกกุหลาบความรักที่เขาให้กันไม่ควรจะหวังอะไรไว้รอ น้องโดนสวมเขาแต่ว่าเขาได้สวมกอดน้องเฝ้าคึดฮอดแต่อายก็สอดไปฮอดเขาเมื่อว่าสิไปหักใครคนที่ทำก็คือเฮาต้องมาคอยปวดหัวกลุ่มหากุหลาบละเด้อพอแล้วหักไปช้ำไปเจ็บมาจน บรรยากาศองศา50ฟาเรนไฮต์ Everyday ไม่ใช่วันธรรมดาเพราะฉันทำทุกๆวันให้เป็นวันวาเลนไทน์หลังเคสโทรศัพท์ฉันแค่มีรูปเธอและก็เบอร์คนสำคัญอยู่ข้างในไม่โมบายมองนั้นหน้าต่างบรรยากาศคนจะชิลตอนนั้นฟิลเหมือนฉันเดินในทุ่งดอกคาโมไมล์อาจเป็นเพราะว่าตอนนั้นฉันไม่เคยคิดถามเธอจะหลอกให้ฉันรักก็ไม่เคยคิดขวางฉันแค่เข้าใจว่ากุหลาบสวยงามพอเวลาผ่านไปทรมานพิษน้ำรักของนั้นเป็นเพียงข้อสันนิษฐานฉันเลยวาดภาพไปไกลเพราะฉันมองฝันนิวานเพราะเธอเข้ามาเหมือนกับว่าเธอเข้าใจฉันต้องยอมปล่อยเธอไปพร้อมกับคำอธิษฐาน โดนสวมเขาแต่ว่าเขาได้สวมกอดน้องเฝ้าคึดฮอดแต่อายก็สอดไปฮอดเขาเมื่อว่าสิไปหักไปคนที่ทำก็คือเฮาต้องมาคอยปวดหัวกลุ่มหากุหลาบละเด้อพอแล้วหักไปช้ำไปเจ็บมาจนหัวใจเซเวมาหลอกให้หักแล้วน้องก็โดนเทหัวใจสิเพกลมมาทันบ่คุ้ม จะไม่ขอเอาหัวใจไปผูกไว้ตรงข้อตีนใคร ยอดเขาความรักที่ทุกคนไขว่คว้าใครอยากจะปีนก็ปีนไปความรักความทุกข์ความสุขความเศร้าเธอจะไม่พบฉันอยู่ในซีนใด Vabbè, meraviglioso. Pezzo thailandese, Kularb, F. Irofet, e poi c'è la scritta in thailandese, blablabla, non lo so, quindi blablabla, non lo so cosa ci sia scritto. Storia, a quanto sono riuscito a capire, di tradimenti, dove lui si strugge per averla tradita e lei che l'ha tradita e quindi non ne vuole più si sapere. Lamenta. Giustamente non ne vuole più si sapere. Lamenta, si lamenta, sì, è tutto un lamentio, però no, un pezzo incredibile. Bellissimo, bellissimo, io sono diventata una grande fan. Comunque, stavamo parlando di tecno-orientalismo, in particolar modo ci stiamo avvicinando alla figura del cyborg asiatico, che poi diventa la figura per eccellenza, è la standard del cyborg, poi arriva da lì, nell'immaginario visivo, non letterario, ma visivo sì, assolutamente. Anche perché poi noi, se ci pensi, vediamo un po' gli asiatici, ma soprattutto, insomma, tipo, non lo so, la figura classica della donna asiatica, infatti ora parliamo proprio di questo, bianca, liscia, sì, quasi immacolata, inespressiva, un robot, sì, di plastica, esatto. Che strana sta cosa, per esempio, effettivamente. Mi ci fai pensare adesso, che sembra che le donne asiatiche nel nostro immaginario non hanno tipo i brufoli, non hanno, esatto, non so, cicatrici. Esatto. Strano, vero? Molto strano, molto strano, molto strano, però è dato anche proprio dalla situazione della donna là, no? In Asia, poi da paese a paese cambia, storicamente le donne avevano in Asia più libertà in alcune società, per esempio quella giapponese, però non erano libere. No. Quindi insomma è roba da sicuramente studiare. Non erano libere di fronte a un dominio occidentale, peraltro. Vabbè, ancora meno, ancora meno. No, per esempio i soldi, no, in Giappone lo gestivano le donne, gestivano i soldi e di fatto quindi avevano un forte potere. Certo. Però dall'altra dovevi camminare un passo dietro al tuo uomo, non dovevi pestare all'ombra, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, bisogna sempre studiarla bene la situazione per capirla fino in fondo. Però non ci stupisce che poi all'interno del tecno-orientalismo e comunque il cyborg arrivi, queste donne, già di per sé il cyborg rappresenta un carattere disumanizzante e ipertecnologico, come dicevamo. Sì. Disumanizzato, non è qualcosa di altro, sì, di lontano. Sì, è che deve anche spaventare in qualche, esatto, maniera. E che spaventa, certo. Poi si associa spesso allo sviluppo tecnologico una perdita di umanità, appunto, giusto. Le donne asiatiche nell'immaginario tecno-orientalista sono quasi sempre sessualizzate. L'Oriente, sappiamo, soprattutto quello nipponico, ce l'ha con la sessualizzazione, in particolar modo delle donne, per cui se voi guardate qualsiasi prodotto di animazione, ma non solo, anche se vai a vedere, no, il target di bellezza che scelgono per, che ne so, il cinema, il di AAA, quindi il grande, chi sono le top model, molto sessualizzate, addirittura che superano, cioè, boh, non lo so, a volte è agghiacciante, ecco. Sì, no, tra l'altro parlavamo prima, cioè ascoltavamo musica thailandese, cioè, e quindi il parallelo col turismo sessuale, tra l'altro, già, è molto ovvio, e nel senso, un po' lo è culturalmente, magari lo sono culturalmente all'interno del proprio paese, quando poi entrano una dinamica di confronto con un impero coloniale, quelli diventano, già erano prodotti, diventano prodotti esportabili e vendibili, vero, quindi vero, di fatto si raddoppia. Hai detto bene, hai detto bene. Incarnano da un lato un potere tecnofilo, chiaramente i cyborg, nella parte cyborg appunto, ma una sessualità tendenzialmente sottomessa, come dicevamo, e conforme a un immaginario molto maschile. È strana sta cosa, perché poi se ci pensate, da un lato la tipica iconografia, ora mi viene in mente Lara Croft, non c'entra niente, però per dire, beh, sì, cioè il cyborg aggressivo, no, che magari ha una parte meccanicizzata, una parte, un inserto, qualcosa, no? Quella è una donna molto aggressiva tendenzialmente, che quindi per certi versi è anche una donna con del potere, del... di per sé non sarebbe una donna sottomessa, è comunque quasi sempre 90% sessualizzata e 90% delle volte stereotipata nei suoi caratteri estetici, perché di fatto è difficilissimo trovare nel tecno-orientalismo estetico, che ne so, una donna cyborg grassa, brava, cioè, giusto, roba qua giusto, non esiste, giusto. E quindi tutto ciò è molto sottile, è molto ambiguo, perché da un lato strizza l'occhio a un empowerment, quindi quasi quasi ti dà questa sensazione che la donna, insomma, attraverso anche la tecnologia possa in qualche maniera emanciparsi. Dall'altro lato emanciparsi in una direzione sempre fondamentalmente di schiavitù, o comunque infatti, di prodotto. Nella fantascienza più moderna, più contemporanea, si è fatto questo scalino. Per esempio Ghost in the Shell si pone nel mezzo, sì, di un cyborg, donna, ultra sessualizzato, che però cerca di uscire, è diversa, è l'eroina comunque, è la, sì, e però rimane un cyborg che rispetta gli ordini, no? Che è vincolata in qualche modo, poi riesce a svincolarsi e va bene, la lotta è anche quella, svincolarsi dal proprio programma. Però sì, ma secondo me, guarda, sia in Ghost in the Shell, ma in generale, quando si trova il tecno-orientalismo fatto dall'interno, quindi in Asia, giusto, c'è anche una grossa amarezza, cioè questi personaggi femminili sono anche molto tristi, sono molto... Ah, boia, certo, profondamente tristi. Sì, vero. E questa cosa qua ti fa empatizzare, cioè smuove un po' le cose. Invece quando questa stessa cosa è fatta in un prodotto, in un'opera occidentale, molto spesso, mainstream sto parlando, chiaro, invece è molto superficiale, questi personaggi non hanno la stessa tristezza, la stessa profondità, sono personaggi che tendenzialmente magari sono mega aggressivi, non sapere neanche per te perché, sembra solo che c'hanno anche loro la rogna come Deckard, e però non... cioè, buttate un po' lì e di fondo quello che l'impressione che danno è... Sì, magari sono anche personaggi protagonisti, magari sono anche eroine, però sono... sono incatenati, sono... sì, sì, è vero, vero, assolutamente. Esiste però anche un cyberpunk decisamente meno mainstream e più politico, grazie al cielo, dove la fascinazione esotica è anche vista come un modo per evadere dagli stretti confini di casa e la mescolanza con l'unica cosa positiva in un futuro devastato. Sì, beh dai, anche perché... effettivamente io penso per noi ha voluto dire anche un po' questo, no? Io mi metto in primo piano, cioè, nel senso che poi magari è un'esperienza mia, ma credo sia anche in parte condivisa. Comunque questo orientalismo che abbiamo visto, abbiamo letto, abbiamo assaporato, ci ha anche affascinato molto, ci ha aiutato a evadere, cioè, e non era tutto quello che abbiamo detto ora, nel senso, almeno sì, forse una parte culturale drammatica c'era, però c'era anche un qualcosa di fascino, di voler andare in una direzione diversa da quella della cultura bianca europea. Esatto. E a noi ci piacciono tutte e due, sia quelle che l'Occidente ha rivisto l'Asiatica, e quindi tutto scuro, tutto molto negativo. Comunque ci piace, come sempre. Ci dice cose. Esatto. Sia soprattutto invece la parte asiatica, e parla di se stessa, anche perché ci ha insegnato che loro, nonostante questo oscuro che c'è, che è vero, se tu vai in Giappone lo vedi, cioè bello, si grattacieloni incredibili, tecnologici, con ogni piano c'è un negozio, con la rete ferroviaria super incredibile, però se ci pensi bene fa paura, e quindi dici sì, bello, ma non ci vivrei. E chissà come la vedono loro. Esatto, esatto. Sì, tra l'altro, insomma, è pieno, ora a me viene in mente il Giappone, ma perché è quello che, con cui probabilmente siamo stati più, sì, siamo entrati di più in contatto, però cioè, insomma, non a caso c'è una grossa letteratura e grossa cultura ecologista, per esempio. Giusto. Cioè che insomma criticano tutto questo. Invece la Corea, che ne parleremo fra poco, invece è diverso, perché ha avuto un'ipertecnologizzazione, un ipercapitalismo repentino. Puff! E quindi ora cominciamo a conoscere noi la Corea, però è perché il K-pop che è sta arrivando da noi, però quella è un tecno-orientalismo ancora più sparato, non so come spiegare. Cioè il Giappone comunque cercava di tenere un equilibrio, invece la Corea anche perché ora io non lo so, la Corea non so abbastanza, che se mi affascina molto, e il Giappone veniva dall'aver perso una guerra ed aver distrutto un impero, cioè nel senso, vabbè, e la Corea da una guerra civile non indifferente, sì, però nel senso il Giappone aveva, cioè la Corea ora sono stati colonizzati da tutti, cioè nel senso l'hanno sempre presi, la Corea da tutti, sì, e sì, quindi vero, vabbè, uno più uno meno, non so come è dire, vero, è vero. Invece il Giappone c'ha questo sentimento, no, del però madonna avremmo potuto farcela. Eh sì, certo. I coreani, certo, secondo me non ci hanno detto vabbè. No, l'idea dell'impero coreano, no? I quattro regni che fondarono la Corea, sì, va bene, sì, ma ciao. Sì, sono cose che si dicono. Esatto. Okay. Comunque, quindi sì, no, in realtà questa parte qua del cyberpunk più politicizzato ci aiuta anche a far capire che, insomma, ora non è che tutto è mega colonialista, che il tecno-orientalismo è qualcosa niente, ci giusto, si basta e basta. Ecco, sì, esatto. Tra l'altro sì, la rappresentazione di questi contesti, diciamo, in questi contesti più politici è sempre mescolata. A me la cosa che fa effetto è un po' questo, no? Che mentre, come abbiamo fatto prima l'esempio di Blade Runner, dove le società erano divise in due, qui no, qui è tutto insieme. Cioè, anche le varie, vari Gibson, Sterling, lì è tutto insieme, cioè diviso in classi, e le classi, all'interno delle classi c'è giapponesi, americani, inglesi, tutto. Perché loro fanno il passaggio in più, cioè il problema non è l'asiaticità in sé, non è il problema, è la società che deriva da un capitalismo sfrenato e una società che perde ogni binario di decenza. Ma infatti anche la cosa che dicevi prima, citavi le Zaibatsu, le grandi multinazionali, quelle lì, in Gibson per esempio, in tutti i romanzi di Gibson, lavorano fianco a fianco Occidente e Oriente, nel senso lì sono tutte grandi strette di mano tra grandi industriali asiatici e grandi industriali americani, ad esempio. Anche perché di fatto sono la stessa cosa. Sì, due metodi diversi, ma insomma anche leggermente di poco. Sì, dai, la letteratura cyberpunk, quella vera, ha le idee molto chiare su questo. Sono d'accordo. Infatti è sempre contro. Sì. Sì, c'è poco da fare. Parlare del fatto che molta fantascienza. Giusto, l'ho scritto io. Parlane. No, la questione che mettevo in campo è questa: cioè, la fantascienza di questo genere vede il futuro come una società, sì, magari unita, per esempio. Anche semplicemente perché a questo punto si sono allargati i confini, e quando si allargano i confini, quindi Luna. Certo. Sistema solare, il problema il nemico può essere altro, e quindi ci si può forse riuscire ad unire, no? la terra, la difesa della terra, insomma, può essere. Quindi spesso la società futura è unita, quindi unita si intende che tutto il mondo è in un unico governo, diciamo. È coinvolto, sì. Ma sempre, quasi sempre, la maggior parte delle volte, a parte quando ci sono produzioni prettamente molto americane, profondamente troppo americane, cioè quando vedi cosa mi veniva in mente, ma per esempio anche Independence Day, no, ma non pensavo a un futuro invece dove è tutto tecnologico, quindi ora trovo l'esempio. Comunque lì invece abbiamo una società più occidentale, però in molto invece cyberpunk, appunto, la cultura è occidentale ma invasa dalla cultura asiatica. È per vero. Esempio, in che termini? Per esempio in termini di fede. Spesso autori e autrici si sono immaginati una variante del buddismo come una religione del futuro, perché effettivamente ci giochi più facilmente, è una molto più libera dai dogmi rispetto al cristianesimo ai musulmani, che si dice monoteismo classico. Sì, ai monoteismi classici, certo. Ma infatti è vero, perché questa è un tipo di influenza asiatica che generalmente non consideriamo, tendiamo a ignorare, perché tendenzialmente quando si parla di tecno-orientalismo si pensa più alle caratteristiche più estetiche, sì. Ovvie. E invece no, spesso c'è anche questo. Esatto, quindi interessante questa cosa della fede. Soprattutto fateci caso quando leggete un qualche cosa di fantascienza, se c'è la fede. Però tendenzialmente qualcosa c'è per forza, perché la spiritualità fa parte dell'essere umano, per cui... Sì, o ci sono delle sette drammatiche, mega distopiche, che tendenzialmente sono delle incancrenimenti del monoteismo, oppure c'è delle sperimentazioni più ibride effettivamente. Sì, esatto, e religioni un pochino più libere, un pochino più aperte, che spesso, tra l'altro, questi autori, se sono occidentali in particolar modo, la dipingono come una cosa molto negativa. Cioè una perdita di valori, no? Sì, solito. Chi è bravo poi quando tutto crolla e si fa un passo indietro e si ritorna ai brutti monoteismi, si dice no, però aspetta, forse era un giudizio un po' troppo negativo. I peggiori invece trovano virtù nel ritornare ai vecchi fede. Esatto. Ai vecchi cenci. Sì, e quindi dal tecno-orientalismo si arriva velocemente al tecno-feticismo. Perché? Perché come dire, questa visione critica e spaventosa di un avanzamento tecnologico capitalista, che è quello che amiamo anche oggettivamente nel cyberpunk, viene spurgata in qualche maniera, spesso, soprattutto negli ultimi decenni, dai suoi aspetti più conturbanti, e viene lasciato il fascino esotico del nuovo. Quindi molto spesso nei prodotti più commerciali, e uso il termine prodotto non a caso, Questo tecno-orientalismo di cui vi abbiamo parlato in questa puntata lo vedete proprio estremizzato, perché non ha più neanche tutti quei caratteri che vi abbiamo detto, che comunque sono complessi, ambigui, problematici, però sono, come dire, anche il segno e il sintomo di una sofferenza o comunque di un lavorio mentale. No, molto spesso ormai questo tecno-orientalismo proprio dozzinale lo troviamo veramente spurgato di qualunque critica, per cui rimane veramente soltanto la donna asiatica, stereotipata, sessualizzata e fine. E quindi proprio adesso, negli ultimi decenni, non che prima non ci fosse, ma adesso molto spesso non c'è neanche più quell'aspetto appunto un po' più problematico, ma perlomeno un po' più complesso, anche se in negativo. No, ora c'è proprio solo il commercio, il prodotto da vendere a 15 anni e ciao. E quindi, come dire, tutto ciò spurga anche la critica che viene fatta nei paesi asiatici della famosa ascesa tecnologica, e in una prospettiva coloniale, perché spesso ci mettiamo in questa prospettiva coloniale anche come dire, senza rendercene conto, ci perdiamo in realtà moltissimi aspetti variegati della cultura asiatica, che insomma sarebbe veramente interessante poi andare a vedere, perché adesso negli ultimi anni si inizia a parlare, per esempio parlo in Italia, di come il mondo asiatico vede la tecnologia, di come il mondo asiatico, ora il Giappone è stato uno dei pochi esempi che effettivamente è riuscito a far uscire come la pensava su determinati argomenti, e insomma li abbiamo visti, ora ne parleremo anche ampiamente. Altri popoli per niente, cioè la Cina adesso finalmente esce qualcosa, ma poco. E quindi insomma, peccato per noi, e speriamo che in futuro si riesca a dare un occhio un po' più approfondito. Però è un buon momento storico, no, è un pessimo momento storico, però è un buon momento storico perché stanno uscendo sempre di più cose appunto cinesi, coreane. Finalmente. O appunto, ho messo un pezzo filippino. Un pezzo thailandese, proprio perché cominciano ad esserci, per esempio, i manga thailandesi. Ah, puoi comprare, cioè editi in Italia. Eh sì, perché magari c'erano anche prima, solo che te non ti arrivava. Sì, o te sì. Devi andare a cercare assai. Esatto. Sì, tra l'altro vi volevamo segnalare anche questa casa editrice ADD Edizioni, che è una casa editrice, una piccola casa editrice torinese, se non sbaglio, che sta pubblicando moltissima, sta traducendo e pubblicando moltissima letteratura, soprattutto di fantascienza asiatica, indonesiana, thailandese, cinese, giapponese, e veramente vale la pena perché ci sono delle perle molto interessanti, tra l'altro di cose anche magari datate, perché comunque sono romanzi classici della letteratura giapponese degli anni 70, per esempio, che però da noi non sono mai stati tradotti e arrivano adesso e finalmente li possiamo leggere. Quindi insomma vi consiglio, se siete incuriosite, di andare a darci un'occhiata. Allora, però abbiamo detto, quindi l'Occidente ha visto e ha preso l'Oriente, l'ha visto secondo i suoi occhi, la tecnologia, quindi una fantascienza imbevuta di Oriente, però imbevuta anche di colonialismo, e ha creato questa sorta di tecno-orientalismo, appunto, diciamo, prendendo a man basse, rileggendolo nei suoi modi, rendendo tutto cupo, negativo, tendenzialmente una critica forte a quello che può essere il futuro in mano all'Asia, anche se non puoi fare a meno di pensare che sarà parte del tuo futuro. Eh sì. Gli asiatici invece, in particolar modo noi conosciamo un po' di più i giappi, ma non solo, appunto, anche altro, invece l'hanno, come dicevamo in incipit, l'hanno vista in modo diverso, ossia hanno provato a dire sì, la fantascienza è imbevuta nella nostra tecnologia, ma noi vogliamo problematicizzare invece proprio questa tecnologia, cosa diventa, se scappa dalle mani dell'uomo oppure no, appunto la disumanizzazione è un processo che è la tecnologia che crea, che è un prodotto della tecnologia, la, certo, disumanizzazione. E quindi arrivano delle cose interessanti già dagli anni 80, no? Sì, allora ci sono alcune cose che vi vogliamo segnalare. Ah, chiaramente qui il mondo si apre, cioè ci sarebbe un miliardo di robe. Noi ve ne citiamo solo qualcuna per darvi un po' un controaltare di quello che vi abbiamo detto ora, finora, perché insomma finora avevamo visto e abbiamo parlato del mondo asiatico visto dall'Occidente. Vogliamo, per non incappare negli stessi errori, invece parlarvi di come la vedevano loro e di come la vedono loro. E un esempio a me sconosciuto, devo dire, nonostante sia abbastanza una cultrice dell'underground giapponese, questo non lo conoscevo e in realtà pare sia un grande classico, ed è il film del 1980, tondo tondo, che si chiama Crazy Thunder Road, e che è un film, beh, è buffo perché è un film fondamentalmente amatoriale, nel senso fatto con veramente due lire, diretto da Sogo Ishii, almeno chissà se si dice così, che è fondamentalmente un film fatto con la scusa del progetto di laurea, cioè lui si è laureato con questo alla Nihon University e con questo film, che però è risultato talmente bello e talmente fresco, interessante, che poi di fatto è diventato un culto in Giappone, perlomeno, e in generale anche un po' nel cyberpunk, perché parla fondamentalmente di un aspetto poi ripreso, vedremo, da molta cultura cyberpunk in generale, ma soprattutto giapponese, che è la controcultura dei Bosozoku. Fantastica. Che sono fondamentalmente, letteralmente vuol dire la tribù della velocità sfrenata, ovvero sono della... Beh, io li tradurrei biker, nel senso che... No, sono biker, certo. Dai, su biker. Quindi c'è questa cultura della moto e della velocità, ed è una sottocultura giapponese che fondamentalmente è il grande classico, no? Come i mods e come i biker e i rockers. Cioè, comunque c'è il culto della motocicletta, con tutto quello che ne comporta, no? Quindi sei da una parte il ribelle, teppista, stigmatizzato, quindi ondate di moral panic in Giappone, perché comunque, come ovunque del resto, anche in Occidente, cioè i biker portano con sé uno stuolo di articoli sui giornali e signore che si strappano le vesti. Però era interessante perché, tra l'altro, siccome stiamo parlando di, insomma, inizia nel dopoguerra di fatto questa cultura, così come il rock and roll, insomma, sono più o meno contemporanee. Perché ci hanno avuto fino al 52 l'occupazione americana. E non a caso. E i primi Bosozoku erano degli ex veterani di guerra che fondamentalmente erano delusi da come era andata a finire, rimpiangevano il grande impero. E tant'è che sulle moto spesso c'avevano queste bandierine dell'impero e vabbè. Sì, ora però quando vedi le svastiche in queste situazioni qua è il simbolo, no, quello è buddista, non è il vero, simbolo è nazista. Ma, cioè, no, però il sollevante, diciamo. Insomma, c'avevano le loro Ora anche lì è un mondo vasto, non facciamo troppo il paragone con i biker americani, per esempio, che sono un altro mondo, o con i mods, però quelli davvero neonazisti spesso. Però insomma, diciamo che c'è delle affinità e delle divergenze, ecco. Sì, esatto. E Crazy Thunder Road fondamentalmente parla di una gang di motociclisti, appunto una gang di Bosozoku. E in realtà tutta questa cosa c'entra col cyberpunk, perché la metropoli in cui si aggira questa gang è una metropoli riconoscibile, estremamente devastata e trasformata dalla tecnologia, è illuminata da queste luci al neon, cemento ovunque, quindi è una visione dell'ascesa tecnologica molto più prosaica, cioè nel senso molto più materialista. Vero, vero. Cioè non è che c'è tanto i cyborg, no, proprio c'è la cementificazione, le discariche, quindi molto terrena. E però è interessante perché la visione molto underground, quindi proprio dal basso, da giapponesi che ti dicono: ok, nel 1980 noi questo vediamo, e questo vediamo come rischio, non tanto grattacieli, no, proprio lo schifo. Certo, anche perché questa gente qua tendenzialmente era gente marginalizzata. Eh sì. Che è una società, quella giapponese in particolare, ma anche quella coreana profondamente, che tende molto a marginalizzare quello che non si adegua. allo standard, al canone. Faccio un piccolo inciso, ma proprio piccolo piccolo, per legarmi a questa storia qua dei Bosozuka, perché diciamo, nel mondo dei manga giapponesi negli ultimi 3-4 anni è arrivata sta grande moda dei combattimenti e degli scazzottamenti fra studenti. Sì, vero. Dove spesso appunto appaiono questi Bosozuki, queste gang di motociclisti. Il più famoso, che è arrivato alla ribalta ora negli ultimi 2 anni, è il Tokyo Revengers, che a dispetto di quello che guardi, se vedi, è fantascienza in realtà. Perché la cosa interessante è questa, perché il plot è tutto questo. Il nostro protagonista, che è innamorato di questa ragazza, si trova invischiato attraverso delle amicizie appunto un po' sopra le righe, diciamo così, si trova invischiato insomma in situazioni un po' spiacevoli, e questa sua ragazza a un certo punto viene uccisa, presa malissimo, lui non sa cosa fare, stringe la mano a un certo punto al fratello di questa ragazza, gli tocca la mano, c'entra, e si risveglia nel passato, quindi lui può tornare indietro. Può modificare anche, quindi. Esatto, una volta capito che sta succedendo questa cosa qui, perché all'inizio chiaramente non capisce bene cosa diavolo stia succedendo, allora inizia a cercare di gestire gli scontri fra le varie bande in modo diverso, però va male sempre, ecco. E tutte le volte lui deve cercare di tornare indietro, poi dopo ci sono dei grandi, insomma a un certo punto siamo arrivati a dei punti dove ci sono finalmente dei grandi colpi di scena, per cui si capisce cos'è sta roba, ci sono anche altri e lo fanno oppure no. Perché questa qui deve morire sempre? Comincia a dare un po' di risposte. Però è interessante. Anche questa è fantascienza, comunque. Quindi no, ganzo. Ma, fra l'altro, quello che forse è difficile cogliere dall'esterno, se non si è particolarmente fissa come noi due, evidentemente, è che quando si parla di Bosozoku in generale, appunto di questi teppisti, questo stigma. Cioè, in Giappone è molto pesante. Cioè, se tu ambienti un film, cioè se i tuoi protagonisti sono questa sottocultura, o se, come vedremo, ambienti un manga, un anime con questi personaggi, tu stai facendo una roba molto radicale di per sé, anche solo per parlare di questi personaggi, perché non è esattamente neutra questa roba. Cioè, non è la cosa un po' buffa, sì vabbè ora piglio il camorrista buffo e ci faccio la serie, certo. No, lì è molto più stigmatizzato, è molto mal visto, quindi già di per sé ambientare un racconto all'interno di una comunità del genere vuol dire che ti poni già in una maniera estremamente radicale, soprattutto nell'80, e di critica. Di buono, sì, assolutamente. Sai, oggi è già diverso. Sì. C'è un po' di fascinazione, però comunque lo tieni lontano. No, nell'80 era abbastanza esplosivo. Tant'è che, insomma, ora abbiamo parlato di film di culto, ma insomma, non è che era proprio sulle televisioni di tutti. Cioè, no, certo. Senso. Infatti. Nell'82 invece arriva l'emblema più emblema che ci sia della visione nipponica della tecnologia e quindi del tecno-orientalismo, che è Akira. L'avrete visto, se non avete visto il film, pazzi. C'è anche la serie, se no ci sono i fumetti, insomma c'è tanta roba. Tra l'altro insomma, manga di genere cyberpunk realizzato da Katsuhiro Otomo. L'opera è stata serializzata in Giappone nell'82, dall'11 giugno del 90 e dall'82 al 90 sulle pagine della rivista Young Magazine di Kodansha, e in seguito raccolta in 6 tankobon. Tankobon, no? È il singolo fumettino, perché in Giappone tendenzialmente i fumetti non si leggono direttamente come lo facciamo noi nel fumettino singolo, ma c'è le riviste. Oh. Ora stanno arrivando anche qui da noi le riviste, ne stanno nascendo tante, ce le trovi, ora cominci a trovarle. Come si era da noi anche prima? Eh sì, allora quelle c'era per PC, più o meno una cosa simile, no? Che quelli per PC, come si chiamavano? Che ora mi vengono più in mente. Io li compravo, tra l'altro. Vabbè, quelli sui videogiochi, no? Che compravi anche delle demo, è uguale lì. Lì ci sono dei capitoli, dei fumetti. Poi dopo c'è molto legame con i lettori, per cui i lettori e le lettrici, per cui poi votano queste cose qui. Per cui se uno non riceve abbastanza voti, poi dopo non viene serializzato. Però prima del tankobon, quindi del fumetto singolo, si legge la rivista. Ebbene, Akira all'inizio viene serializzato appunto all'interno di queste riviste. È ambientato in una Neo Tokyo post-apocalittica, quindi cioè la tecnologia qui è vista nel più nella maniera più negativa possibile. Sì, è terribile. Ha preso il controllo di tutto, la gente non ci capisce più niente. È un casino. Ruota attorno al tentativo di Kaneda, che è il leader di una banda adolescenziale di motociclisti. Meraviglioso, Kaneda, tutti noi. Infatti la moto ricorda molto, no, molto no, però ricorda abbastanza quelle customizzate da Ebo Zozoka. Dicevo, Kaneda, al tentativo dell'attivista politico di... aiuto, allora, ruota attorno al tentativo di Kaneda, dell'attivista politico Kei, di un trio di Esper e del colonnello Shikishima, di impedire a Tetsuo, un amico d'infanzia di Kaneda, di sviluppare poteri Esper. Quindi c'è il tema dell'ipertecnologia, c'è il tema però anche chiaramente dei poteri mentali che si fondono in qualche modo. E anche della sperimentazione, perché Kaneda, Akira di fatto è il frutto di una sperimentazione su questi bambini. Poi a un certo punto vi spoileriamo tanto, che comunque sui bambini venivano fatte sperimentazioni per creare armi di fatto, guerrieri, eccetera, grande classico. E quindi evidentemente questi sono effetti collaterali di una tecnologia e di una scienza incontrollata. Ma non solo, Otomo non si ferma qua, perché ci racconta di una società che corrotta, profondamente corrotta, dove il potere la fa, appunto, avere il potere ti cambia letteralmente la visione del mondo, e l'isolamento sociale di invece chi non ha il potere. Quindi delle tematiche veramente profonde. Sì, beh, tra l'altro ora non l'abbiamo detto, ma è abbastanza, come dire, sottointeso, si parla sempre dell'atomica, cioè nel senso qui c'è il grande elefante nella stanza, che è l'essere sopravvissuti a due bombe nucleari, insomma. Esattamente. Nell'86 invece abbiamo Death Powder. Sì, altro film abbastanza culto, questo qui ancora più estremo, questo devo dire non l'ho visto, non so se ce l'ha fatto. Se ce l'ho fatta, io devo dire che nella mia vita ne ho visti parecchie di robe giappe pese. Questa mi manca e chissà se adesso me la accollo. Comunque, sì. Film dell'86, The Power, Polvere della Morte, che è fondamentalmente un film, invece questa volta usciamo dall'ambito delle controculture, entriamo in quello della sperimentazione estetica cyberpunk più classica, quindi di fatto è un horror con molto buffo, nel senso che è tutto molto didascalico, se vogliamo. C'è questa Tokyo del futuro, dove c'è Guernica, questo nome emblematico, che è un androide femminile in grado di produrre questa polvere mortale, e c'è Kiyoshi, che è uno di questi ricercatori che hanno sviluppato questo androide, che per sbaglio inala questa polvere e comincia ad avere delle allucinazioni lisergiche, e da lì si parte con un mega trip dove ci sono delle scene dal passato di Guernica, quindi di questo androide. Da lì insomma iniziano di fatto la trama è quel che è, e ci sono più che altro una serie di visioni di futuri distopici, di corpi sfigurati, tutto ciò. Ovviamente si parla di mutanti, di carne mista alla macchina. Tutto ciò è chiaramente un grosso riferimento anche qua all'atomica e a tutto quello che comporta fisicamente, e che si sono visti sulle loro pelle. Ma è come dire, è come se vedessero un filo continuativo, non ci fosse una soluzione di continuità tra lo sviluppo della bomba atomica con le sue conseguenze e lo sviluppo ipertecnologico dell'industria degli anni 80. Di fondo, chi in Giappone ha prodotto cose di questo tipo ha una visione estremamente radicale, estremamente politica, che va in questa direzione. È vero, poi tra l'altro c'è in tutto questo mondo qua, c'è anche, proprio come mi veniva in mente mentre ti ascoltavo, appunto il fatto che la tecnologia diventa arma. Eh sì, sì. Diventa sì. Arma di sterminio, diventa arma di potere incontrollabile. I giapponesi su questo... Esatto. Per esempio, sempre negli anni 80, nasce Gundam, no? E Gundam racconta proprio questo, racconta proprio il fatto che un'arma tecnologica, più tecnologica, che nasce dalla velleità di potersi difendere sempre, comunque l'armarsi si sa che porta, prima o poi dovrei usarle le armi, e racconta dove chi riesce a entrare in possesso di armi anche leggermente più potenti di quegli altri poi inizia tendenzialmente, è indotto a iniziare una guerra di conquista incredibile. E Gundam è un po' questo, racconta sì. Questo, e i Gundam sono questo scatto tecnologico che servono a potenti per conquistare, ma serviranno anche chiaramente agli eroi per difendersi. Ma infatti, se avessimo preso quell'orientalismo lì, madonna quanto ce l'avremmo guadagnato. E poi ci sono vari che potremmo citare. Tsukamoto, regista meraviglioso, da citare Le avventure del ragazzo del palo elettrico, un film dell'87 super bello, devo dire. Non mi manca. No, è surreale come tanti di quei film di quel periodo giapponesi. C'è questo ragazzino che ha un palo elettrico sulla schiena. Fine. Cioè, nel senso, nessuno si pone il problema del ma perché, scusa, c'è un palo elettrico sulla schiena? Che è un po' bizzarra come cosa. No, normale. Lui c'ha un palo elettrico sulla schiena e quindi si parla delle sue problemi, del fatto che viene bullizzato, perché insomma gli altri ragazzini lo prendono per il culo per il fatto che c'ha questo palo elettrico. E poi c'è tutte le sue vicissitudini, perché poi da lì è completamente surreale, ma è bellissimo, perché da lì lui fa amicizia con una ragazza che è un po' l'unica che non lo bullizza, e da lì arrivano a scoprire che la società in realtà è dominata dai vampiri, e lì lottano contro i vampiri per sconfiggere. Fantastico questo, ma... Dunque era la bomba, no, bellissimo. Ho letto un fumetto che è evidentemente tratto da questo. Ah, vedi? Icari Man si chiama, è uscito 5-6 anni fa. Vedi? E effettivamente ci ritrovo tutto quello che hai detto. Ora lui diventa elettrico perché sta chiuso in casa perché è bullizzato male. E a un certo punto ha questo computer, chiaramente un super hacker di quelli che aggeggia con tutto. A un certo punto casca all'indietro e casca su una presa di corrente, insomma un adattatore di qualche genere, gli si infila nel collo. Bellissimo. E da quel momento però diventa elettrico, per cui si può anche trasformare in elettricità. E poi tutto questo però è tutto secondario, perché in realtà il manga parla del bullismo, parla di come reagire al bullismo e di come di non reagire al bullismo. Insomma, è molto psicologico. No, è strabello. E sempre Tsukamoto è forse uno degli esempi più classici del cyberpunk. Quando si parla di cyberpunk spesso si pensa a Tetsuo di Tsukamoto del 1989. L'avventura del ragazzo del palo elettrico era di 2 anni prima, dell'87. Nell'89 Tetsuo è un film, anche questo, molto pesante, molto crudo, dove c'è proprio quella iconografia poi passata alla storia, che ha formato intere schiere di cyberpunk, della carne, il cyborg, che si mescola alla macchina, sì, i cavi, e con tutto lo schifo che ne fa parte, cioè tutt'altro che asettico, tutt'altro che... Devo dire che, ecco, questa è un'iconografia tipicamente asiatica. Brava. Cioè, non c'è niente di asettico, bianco e pulito nel cyborg e nel cyberpunk. È tutto sporco, schifoso e orrendo. No, non è vero. Metti accanto il classico cyborg americano e il classico cyborg giapponese, per dire. Uno è pulito, è la tecnologia che si fonde all'essere umano per renderlo migliore e più forte. Sì. Quell'altro è un casino. È una merda. Poi magari, di base è una roba negativa. Che sì, è una perdita di controllo. Molto interessante. Sì, ma a me mi pare anche che i giapponesi da questo punto di vista abbiano meno paura paradossalmente di mostrare il loro corpo, cioè lo schifo, cioè la carne, cioè hanno una coscienza di che cos'è la carne e non ne hanno paura. Mentre invece gli occidentali, quando parlano di cyborg, vedono nella macchina una salvezza in qualche maniera, proprio perché toglie gli elementi impuri, se vuoi. Sì, credo che sia anche qui sia dipenda da una diversa da questioni storico-culturali. Da noi monoteisti il corpo è qualcosa di transitorio, di migliorabile fino a un certo punto, tra l'altro, però comunque ci si può lavorare con perfezione, perché stiamo toccando quello, la roba meglio che Dio ha fatto. No? Cioè, è vero. Quindi bisogna andare. E quindi quando si crea qualcosa di piacevole, armonico e che potenzia. Di là, invece, il corpo è purezza. Se lo tocchi troppo, diventa impurità. Ah, vedi. Cioè, per esempio, la base dello shintoismo, che è la religione base di nascita, diciamo, autoctona giapponese, è proprio questo, puro impuro. Passa tutto da lì. E quindi il corpo lascialo fare. Lascialo fare, perché diventi impuro. Esatto, è proprio perché anche, non solo, però uno dei motivi per cui gli Yakuza si tatuano e il giapponese medio no, passa anche da quello. Ah, vedi? Ah, che bella questa cosa. Poi vabbè, Takashi Miike buttato lì solo per amore così di romanticismo, Ichi the Killer del 2001, Gozu del 2003, sono film storici, anche lì magari meno cyberpunk in tema cioè da un punto di vista classico, sono della roba comunque pesantissima, che vi consiglio di vedere soltanto se siete in un periodo della vostra vita ridente e tranquillo e che non temete di poter rovinare, perché veramente sono molto pesanti. E sono però di base tutti i film, quelli di cui vi abbiamo parlato, dei film con una visione interna dello sviluppo industriale, non occidentale. Quindi anche questi di Takashi Miike, che sono meno didascalici, nel senso magari non parlano di cyborg, però parlano tutti di un'estrema sofferenza e disagio all'interno di vivere all'interno di questa società altamente sviluppata da un punto di vista industriale e tecnologico. E quindi niente, queste sono le cose che almeno al volo sul Giappone vi potevamo buttare là, ma potremmo parlarne penso per 16 ore. Sì, certo, per 16 ore. Riprendiamo un attimo fiato e concludiamo la puntata di oggi parlando invece però di qualcos'altro di asiatico, appunto la Corea, che iniziamo adesso a conoscerla un po' di più, e la Cina anche, che un pochino di più. E quindi rimanete con noi, adesso un bel pezzo rap cinese, eh? Che ne pensi? Ah, bello. Don't let the moody go, you got to be a don't let the leak on you, but see the two chain tight, miss a sense, like a top, I don't school chain show, tell the shit. 他们太认真，他们不不精心想，他们踏入征程，步步惊心响。他们爱情的程度堪比Donkey Shot，暧昧进到我观众在台下呼声连连。我在游览城之前，我在睡梦中给呼声连连，换了睡眠呼吸中是真，谁走都是真，通通是真，通通是疯，我比较希望总是不准。Nice，那些人我们不算是同类，我们比较real，他们比较fake。Poker牌都希望自己蒙对，他们真真假，但想完美的胸围。要说歌手嘻哈，是个傻了逼，来请他们嘻哈，毕竟他fuck with China Beat, meraviglioso, da non confondersi con China Man. No, no. Che però è un grande, so. Fantastico, ascolta. Non so chi sia. No, lì è America. E allora, dicevamo, siamo su Radio Wombat innanzitutto. Sì, e queste sono le porte di Tannhäuser e stiamo parlando di tecno-orientalismo. Siamo giunti un po' alla fine del nostro racconto e ci stiamo spostando un po' per quei paesi asiatici che cominciano ad uscire nella fantascienza, nella produzione che già c'era comunque da tempo, ma che a noi non arrivava fondamentalmente. Sì. Partiamo da il fenomeno più recente e più grande, un'esplosione veramente incredibile, che è il mondo coreano, che è arrivato a noi un po' perché, insomma, a un certo punto l'America ci ha messo le mani sopra, ha esportato un capitalismo fuori controllo che ora arriva al suo culmine. Per cui, insomma, tanto denaro passa proprio per la Corea del Sud in questo momento. E chiaramente c'è un'iperproduzione che esce fuori e si riversa anche nel mercato occidentale, proprio per questo legame profondo che c'è a questo punto fra la Corea e il capitalismo, e secondo me rispetto al Giappone mantiene lo spiritualismo orientale, ma è uno spiritualismo un pochino più vicino a noi, un po' meno lontano rispetto al Giappone. Il Giappone crede agli spiriti delle rocce, va bene? Questi qua invece casomai credono, sono più confuciani magari, credono come si dice? Agli avi, tutto sommato. La reincarnazione. Hanno anche dei demoni, figure di questo tipo. Sì, cioè, ma la cosa che colpisce è che comunque sono molto più laici di noi nel buttarci. Laici, il contrario, forse. Però sono molto più tranquilli nel buttarci degli elementi fantastici. Ah, sì, sì, certo, comunque. Certo. Sì, cosa sì, che sì. Noi sì. Invece. Però. Sarà colpa dell'illuminismo, non lo so. Esatto, infatti. Però sì, è vero, sono più confuciani. Confuciani. Sì, esatto. No, c'è lo zoroastrismo, c'è diversa robina lì che si lega alle stelle, quindi insomma, e a qualcosa che è. E quindi è comunque orientale, diverso da noi, però la Corea in qualche modo è più vicina, e quindi sta arrivando questa marea di roba che è pure interessante, tra l'altro. Finalmente arriva anche roba interessante. Mi viene da citarvi Bim Yung-hun come scrittore, molto interessante, tra l'altro edito sempre da Ad Editore, che è quello dicevi te, Ad Editore, editrice, che dicevi tu prima. È nota di colore interessantissima, secondo me, che dal 2020 al 2021 è stato consulente per il Ministero degli Affari Esteri sudcoreani sul tema di una possibile amministrazione globale del pianeta Marte. Sì, ci hanno pensato. Dai ragazzi, ma che sarà ricca, incredibile. Ci si sa mai, se magari intanto ragioniamone. Per non farsi cogliere impreparati, anche fosse che poi... Bellissimo, l'ho trovato eccezionale. Anch'io. L'ultima opera che trovate interessante è In Orbita. Nel cielo terrestre appare un secondo sole. Un giorno appare questo secondo sole. E quindi ci si domanda, è un'opera artificiale di anonimi sabotatori? Si distingue per la... e ha la forma di Pac-Man. No, vabbè. E quindi sicuramente non è una roba naturale, credo. Sì, ma... Le forze spaziali della Repubblica di Corea, che è la protagonista della narrazione, si scuotono dall'abituale sonnolenza per affrontare l'inatteso fenomeno che oltretutto riscalda l'atmosfera. Ah, e quindi c'ha chiaramente non era innocuo. No, per cazzo. Nella girandola di eventi che ne segue, tutti ambientati in una sperduta base di lancio, conosciamo una galleria di personaggi eccentrici, dall'ex membro della boy band B-Density, quindi molto contemporaneo, che sin da bambino sognava di fare l'astronauta, dall'agente dei servizi informativi esperto di origami fino al pilota dei razzi che combatte contro l'intelligenza artificiale. Bellissimo. A complicare il tutto interviene il ritorno sulla Terra del crudele governatore di Marte, che ha appena sedato una rivolta su un pianeta rosso completamente antropizzato. Così. Vedi, lui ci ha ragionato su come conquistare Marte, cioè, e poi l'ha messo sul romanzo, giustamente. Per quello gli hanno chiesto. Niente, quindi insomma, nella quarta di copertina ci dice il ritmo e la struttura di un K-drama. E vabbè, non lo so, non l'ho ancora letto. Speriamo di no, dai. Non credo, non lo so. Altra invece autrice molto interessante che dovreste conoscere, perché in realtà ha vinto diversi premi, L'origine della specie di Kim Bu-yong. Anche lei, se non sbaglio, è edita da... Ci sta, perché mi sembra. Perché mi sono guardata il catalogo e mi sembra di averla notata, eh? Quindi potrebbe essere sempre ADD Edizioni. Sì, esatto, confermo. Altro testo molto interessante che vi consiglio di cercare, di trovare, perché ne vale la pena. Anna's Archive. C'è tutto. Perfetto, ecco, bravi, andate lì perché ci sta di leggere questa roba. Vabbè, non sto a dilungarmi su di lei, però molto interessante. No, volevo dire un'altra cosa, che mi stavo lasciando scappare, riguardo invece a un altro mondo invece molto interessante, che è quello thailandese. Quello davvero è difficile riuscire, invece sta uscendo piano piano. Sono usciti alcuni manga interessanti, sempre di fantascienza, e su Netflix, se vi interessa, questo Tomorrow and I, appunto, lo trovate. È una sorta di Black Mirror in salsa thailandese. Bah? Può essere interessante. Quindi episodi autoconclusivi? Sì, pochi. Sono 4 episodi. No, forse sono di più, forse ne sono usciti solo 4, non Vabbè. Lo so. Comunque, cercateli, scaricateveli, perché magari... Il loro punto di vista. È diretta da Pawin Purijit Panian. Ah, certo, ricordo. 4 episodi da 70 minuti, vabbè, ci può stare. Quindi interessante, della Thailandia io ancora non ne so abbastanza per poter... Ma zero, devo dire. Esatto, cioè non ne ho idea. Thailandia è un posto strano, no? Perché è Asia, però è... Thailandia sono musulmani, no? Per buona parte. Però c'hanno anche un grosso movimento comunista... che si scazzotta con i musulmani. È un casino. La Thailandia tendenzialmente è un casino. Sì. Poi c'hanno ogni tanto qualche disgrazia climatica devastante. Sì, in quella zona. Però insomma è interessante, perché è un mondo comunque grande, ragazzi. Cioè, c'è tanta gente lì. No, ma infatti ora è una banalità. Poi insomma abbiamo fatto una trasmissione di un'ora e mezzo per dirvi questo, quindi è inutile che ve lo ridiciamo adesso. Però veramente stiamo parlando di una fetta di mondo enorme e noi ci cancreniamo sulle 3-4 cose che conosciamo. Perché sono l'unica di cui possiamo parlare. Oh, ci arrivano, quelle so. E uno deve cercare bene, ma anche cercando bene, insomma, la Thailandia ora stiamo cominciando a conoscerla. Poi concluderò con questo Mugina, te lo dico, che ho citato prima, cioè di una fantascienza veramente contemporanea, secondo me moderna, una fantascienza moderna, ma ne parliamo fra poco. Ci fermiamo un attimo a parlare invece della Cina, perché finalmente, ne abbiamo parlato in diverse puntate, arriva fino a noi la fantascienza cinese, che è interessante, c'è poco da Madonna, fare. Madonna, sì, ma veramente, ma da tantissimi punti di vista. I tre grandi generali della fantascienza odierna, insomma più contemporanea cinesi, sono Cheng Xin Liu, chiaramente, ma anche Han Song e Wan Ching Kang, li trovate editi da noi facilmente, e poi ci sono le nuove generazioni, che questa qui era la vecchia generazione. Pensa, siamo già alla vecchia. No, scusate, le nuove, no, c'è cioè la nuova e la nuovissima generazione. Infatti. La nuova generazione sono i Balin Kuo. Oddio. nati dopo gli anni Ottanta. Sono okay. tutti quegli scrittori e le scrittrici nati dopo gli anni Ottanta. Okay. E poi ci sono i Ling Ling Kuo, che invece sono nati nel nuovo millennio. Quindi tutti scrittori e scrittrici nati nel nuovo millennio. Ah. C'è questa differenziazione. Eh beh, c'è una differenziazione mica da poco, anche perché in Italia, in Europa, insomma, comunque in Occidente tendiamo a fare molto questa distinzione. E beh, altrettanto faranno in Cina. Sì, infatti. Fra quelli nel millennio che conosciamo un po' meno, ma che qualcosa si trova, assolutamente c'è Xia Jia, Chen Qingfan, Tang Fei, Bao Shu, Mu Ming, che non è Wu Ming. vabbè, e altri. C'è una casa editrice che è potete andare a futurefiction.org, fantascienza cinese. C'è tutto un ampio catalogo di esempi che potete andarvi a spulciare. È un fenomeno interessante che negli ultimi 10 anni sta cominciando a uscire finalmente. E nulla, vi consiglio di leggerla. Io ho letto tendenzialmente Ching Xin Liu e insomma i tre generali li ho letti, gli altri no, per ora. Però ancora non ho letto quella raccolta che ho comprato di cyberpunk asiatico. Però vabbè, io devo dire mi sto buttando molto sui libri di ADD e quindi presto o tardi vi ammorberò con le mie scoperte. Ci sta, assolutamente ci sta. Ultima menzione della puntata invece è la fantascienza, come vi dicevo, a mio avviso moderna, che ho letto da poco, è uscito ora il primo volume in Italia. Si chiama Mugina Into the Deep. Questo è giapponese. Giapponese. Molto interessante perché fonde il classico tecno-orientalismo, diciamo, ormai diamogli questo termine, quindi... la società che abbiamo detto, fumosa, piena di gente, distopica. Stretta, distopica e molto divisa in classi sociali, diciamo, con la modernità, dove c'è qualcosa di nuovo, perché la tecnologia, anche in qualche modo la tecnologia di comunicazione, c'è sempre stata nella fantascienza, no? È un topos importante. Beh, sì, certo. Addirittura Ursula Le Guin inventa questo linguaggio ansibile, no a parte il linguaggio, l'ansibile, che è questa cosa con cui puoi parlare, è come se tu potessi parlare in tempo reale con pianeti lontanissimi. Ah, ok. È un topos importante perché perché chiaramente è un cambio tecnologico fondamentale. Però è uno degli esempi di tecnologia di comunicazione che c'è nella old school, ma il cellulare come lo vediamo noi, inserito all'interno della fantascienza, cioè quindi lo smartphone e quello che ne deriva, cioè i social media che ne derivano, non era mai stato, secondo me, colto veramente, raccontato fino in fondo, perché era qualcosa da immaginare. Ecco, qui invece non c'è niente da immaginare perché lo stiamo vivendo, lo inserisce bene. Quindi i Mugina sono queste persone che non hanno diritti, non hanno nessun diritto, l'hanno persi per varie questioni. È una società che questa gente qua fuori non può essere curato, non puoi votare, non puoi nulla. E quindi cosa succede? Quindi non puoi neanche essere arrestato e processato da un tribunale. Non esisti. È come se tu non esistessi. Quindi questi Mugina, chiaramente a un certo punto, quelli più forti, intelligenti, in questa zona grigia in cui si trovano, iniziano a fare i sicari. Vabbè. Chiaramente. Quindi possono anche per esempio a riuscire ad usare tecnologie che sono state vietate perché ritenute non pericolose, per esempio. Quindi loro possono e quindi è la storia di questi Mugina. Siamo solo al primo volume e una di queste Mugine è una senza casta, quindi una paria, è una sicaria, però è una TikToker. E quindi la gente invece della società normale è super attratta da lei. Ah, perché gli altri non ce le hanno invece queste robe. No, esatto. Lei ha la libertà di fare quello che vuole proprio perché è fuori dalla società. E quindi sfrutta la tecnologia invece della società in qualche modo per scardinarla. Poi in realtà pensa giustamente molto a se stessa, perché quando sei fuori dalla società devi sopravvivere. E quindi si incontra con un'altra Mugina che invece non ha questo occhio, invece fa molto alla vecchia maniera, alla zitta, e si incontrano. E lo scontro fra queste due visioni chiaramente può portare a delle Bello. Diversificazioni molto interessante e molto moderno, l'ho trovato assolutamente. Beh, direi che vi abbiamo dato una bella panoramica sia degli aspetti problematici, fastidiosi e orrendi del tecno-orientalismo nella sua versione più colonialista, e anche però un tentativo, insomma, di aprire un attimo un tombino sui contenuti invece prodotti in Asia per davvero, insomma, quindi non quelli che gli appioppiamo noi. Esatto. Dall'alto. E beh, direi che siamo in conclusione. Allora, ultimamente i prossimi lunedì sono critici perché ci sono un sacco di ponti. Sì. E quindi noi in realtà Pasquetta. La volta prossima è Pasquetta. Pasquetta, vi so già dire che Slick Chick non ci sarà, vi do questo spoiler. Ma il 28 invece potremmo esserci, chissà. Sì, chi direi di sì. Allora ci risentiremo con le porte di Tannhäuser il 28, che ci frega a noi della Pasqua, tanto poi è pure passato. Ma io sono al lavoro, tra l'altro. Ma infatti. Non so, in realtà forse meglio essere al lavoro. Non lo so. No, boh, non lo so. Si sa. Meglio essere con gli amici su un prato, sinceramente. Meglio essere in radio. O in radio, però vabbè. E quindi sì, quindi vi diamo appuntamento tra due lunedì, lunedì 28 aprile, sempre ovviamente con le porte di Tannhäuser, e quindi rimanete in ascolto del Wombat. Buonanotte. Buonanotte. Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un pozzo dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto. As it should always be, the foundlings are the future. This is the way. This is the way. This is the way. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. Sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla Terra. Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.